Il mulino sulla Floss di George Eliot. Libro primo, un bimbo e una bimba. 1. Esterno del mulino di Dorlcote. Una vasta pianura, dove la Floss, allargandosi, si affretta al mare tra le verdi rive e l'innamorata marea, precipitandosi ad incontrarla, le sbarra il corso con un abbraccio impetuoso. Portati da questa marea possente, i neri bastimenti carichi di tavole d'abete dall'odore fresco, di semi oleosi in sacchi ricolmi o di carbon fossile cupo e lucente, risalgono verso la città di St. Ogg's, che scopre i suoi vecchi tetti rossi e scanalature e le ampie gettate dei suoi scali tra una bassa collina boschiva e il margine del fiume, tingendo l'acqua di un lieve color di porpora sotto il fuggitivo chiaggiare di questo sole di febbraio. Molto lontano, ai due lati, si distendono ricchi pascoli, interrotti da toppe di terra nera pronta a ricevere il seme della verde messe fogliosa o toccata dal colore del grano seminato nell'autunno con i suoi teneri steli. Qua e là, oltre le siepi, ancora spuntano ciuffi d'oro, i resti delle biche dell'anno passato simili ad alveari, e dappertutto le siepi sono adorne di piante. Le navi lontane paiono sollevare i loro alberi e piegare le loro vele rossobrune tra i rami degli agili frassini. Proprio vicino alla città dei tetti rossi, l'affluente Ripple si butta con viva correntia nella Floss. Com'è caro questo piccolo fiume, con le sue increspature cupe e cangianti. A me pare un vivo compagno, allorché mi aggiro lungo le rive e porgo orecchio alla sua placida voce, come a quella di uno che ci ami e non ci ascolti. Ricordo i grandi salici che vi si tuffano, ricordo il ponte di pietra ed ecco il mulino di Dorlcote. Bisogna che io mi fermi per qualche minuto qui sul ponte a guardarlo, ancorché le nuvole siano minacciose e il pomeriggio già tardo. Anche per questo tempo spoglio del finire di febbraio è piacevole a vedersi. Forse che la stagione un po' fredda e umida aggiunge fascino alla casa civile, ben tenuta ed accogliente, antica quanto gli olmi e i castagni che la riparano dai soffi del settentrione. La corrente ora è gonfia e invade questa breve piantagione di salici e quasi sommerge il ciglio erboso del prato di fronte alla casa, mentre guardo la corrente piena, l'erba vivida, la delicata incipriatura di muschio verde chiaro, che sfuma il profilo dei grossi tronchi e delle frasche scintillanti di sotto ai nudi rami di porpora. Sento di amare un'umidità leggera e invidio le bianche anatre che tuffano la testa nell'acqua tra questi salici senza preoccuparsi della goffa figura che fanno nel più asciutto mondo d'intorno. La foga delle acque e il frastuono del mulino persuadono ad un sognoso stupore che sembra accrescere la pace della sera, fanno come un grande velario sonoro che ci divida dal mondo di fuori. Ed ecco, con un rumor di tuono, l'enorme carro coperto che torna a casa coi sacchi di grano. Il deben carrettiere pensa alla propria cena che a quest'ora tarda starà miseramente bruciacchiandosi sul forno. Eppure non la toccherà finché non avrà dato la vena ai suoi cavalli, i forti e obbedienti animali dal mite sguardo, che di tra i paraocchi stanno fissandolo, m'immagino, con blando rimprovero perché fa schioccare su di loro la sua frusta, con sì terribile minaccia quasi che si abbisognino di un tale incitamento. Vedi come tendono le groppe sul pendio verso il ponte, con tutta la loro energia, ora che sono così vicini a casa. Guarda le loro grosse zampe villose, che paiono aggrapparsi alla solida terra, la forza paziente dei loro garresi curvati sotto il greve giogo, i muscoli gagliardi dei loro fianchi affaticati. Vorrei sentirli nitrire sulla loro avena duramente guadagnata e vederli sciolti dai finimenti, i colli madidi, tuffare le froge bramose nel torbido stagno. Ecco, sono sul ponte. Ecco, ne ridiscendono con passo più rapido e l'arco del carro coperto dispare alla svolta dietro gli alberi. Ora posso tornare a volgere gli occhi verso il mulino e osservare l'infaticabile ruota che spruzza via i suoi indiamantati getti d'acqua. Anche questa piccola bimba sta osservandola. È rimasta lì, sulla sponda del rio, sempre nello stesso luogo da quando io mi sono fermata sul ponte. E questo curioso cane bianco, dagli orecchi bruni, par che balzi ed abbai in un inutile rabbuffo contro la ruota. Forse ne è geloso, perché la sua compagna di giochi, dal berretto di castoro, è tanto assorta a guardarne il movimento. È tempo, credo, che la piccola compagna di giochi rientri in casa dove una luminosa fiammata l'aspetta. La luce rossa splende sotto il grigio del cielo che incupisce. È tempo, anche per me, di cessar di posare le mie braccia sulla pietra fredda di questo ponte. Ah, che le mie braccia sono proprio intorpidite. Sono rimasto coi gomiti puntati sui braccioli della mia poltrona, sognando che ero sul ponte. Ah, che le mie braccia sono proprio intorpidite. Sono rimasta coi gomiti puntati sui braccioli della mia poltrona, sognando che ero sul ponte, di faccia al mulino di Dorcote, quale esso mi apparve in un pomeriggio di febbraio, molti anni fa. Prima di assopirmi, stavo per dirvi di che parlavano Mr. e Mrs. Stalliver, seduti accanto ad una luminosa fiammata nel salotto di sinistra, proprio in quel pomeriggio che io mi stavo sognando. 2. Mr. Tulliver del mulino di Dorlcote esprime le proprie vedute su Tom. E quel che io voglio, sapete, disse Mr. Tulliver, quel che io voglio è dare a Tom una buona educazione. Un'educazione che sia un pane per lui. Ecco ciò che avevo in mente quando ho dato il preavviso che gli doveva lasciare l'Accademia per il giorno dell'assunta. Per la mezz'estate voglio mandarlo a una vera scuola come si deve. I 2 anni dell'Accademia sarebbero stati più che sufficienti se io avessi l'intenzione di farne un mugnaio o un fattore, perché di istruzione ne avrebbe sempre avuta un bel po' più di me. Tutte le spese che mio padre ha fatto per la mia istruzione sono state una buona frusta da una parte e un sillabario dall'altra. Ma Tom, vorrei che studiasse a dovere, per poter capire i trucchi di quei tipi che parlano pulito e scrivono con tanto di svolazzi. Così mi sarebbe di aiuto, tra questi processi arbitrati, eccetera, fare del ragazzo un avvocato vero e proprio. No, mi spiacerebbe per lui che diventasse un furfante, ma qualcosa come un ingegnere, un agrimensore, un perito e venditore all'incanto, come Riley, o che facesse uno di quei mestieri furbi, che son tutto guadagno, senza altri sborsi che una grossa catena d'orologio e uno sgabello. Mestieri che su per giù si somigliano tutti e non sono poi neppure molto diversi dall'avvocatura, credo. Tanto è vero che Riley guarda dritto in faccia l'avvocato Wokem, come un gatto ne guarda un altro. Lui di quello là non ha paura. Mr. Tulliver stava parlando a sua moglie, donna bionda di bell'aspetto che portava una cuffia a ventaglio. Mi fa spavento di pensare quanto tempo è passato da quando usavano le cuffie a ventaglio. Ormai devono essere prossime a tornare di moda. In quegli anni, quando Mrs. Tulliver era sulla quarantina, erano una novità per St. Oaks, ritenute delle galanterie. Bene, Mr. Tulliver, tu la sai lunga. Io non ho nulla a ridire, disse lei. Ma non sarebbe meglio che io ammazzassi un paio di polli e nella settimana entrante venissero a pranzo le zie e gli zii? Così tu sentiresti quel che hanno da dire in proposito sorella Glegg e sorella Pallet? C'è proprio una coppia di polli che ha bisogno di essere ammazzata. Puoi sgozzare tutti i polli del cortile se ti pare, Bessie, ma io non domanderò né a zia né a zii quel che devo fare di mio figlio, disse Mr. Tulliver con aria di sfida. Buon Dio, disse Mrs. Tulliver, urtata da questa retorica sanguinaria. Come puoi dire così, Mr. Tulliver? Ma già, è il tuo sistema di parlare con disprezzo della mia famiglia. E sorella Glegg ne dà tutto il biasimo a me, quantunque io sia certa di essere innocente come un bambino ancora da nascere. Perché a me nessuno m'ha mai sentito dire che non sia una fortuna per i miei figli d'avere degli zii e delle zie che possono vivere indipendenti. Ad ogni modo, se Tom deve andare ad una nuova scuola, preferirei che fosse in un posto dove io potessi lavare e aggiustare la sua biancheria. Altrimenti può ben averne di cotone o di lino che diventerebbe gialla tutta ad un modo, prima di essere stata lavata una mezza dozzina di volte. E allora, mentre il cesto va avanti e indietro, potrei mandare al ragazzo una focaccia, un pasticcio di porco o una mela, perché gli può ben permettersi un boccone di più. Dio lo benedica, che gli lesini non ho le pietanze. I miei figli possono mangiare almeno quanto gli altri, grazie a Dio. Bene, bene. Non lo manderemo in un posto che non ci arrivi il carro del conducente, se possiamo combinare per il resto, disse Mr. Tulliver. Ma tu non devi mettermi dei bastoni tra le ruote per l'affare del bucato, eh? Se non si riesce a trovare una scuola abbastanza vicina. Hai il solo difetto che trovo in te, Bessie. Se vedi un travicello sulla strada, eccoti subito lì a pensare che non potrai passarci sopra. Non mi hai lasciato assumere un buon carrettiere per via che aveva un porro sulla faccia. Buon Dio, disse Mrs. Tulliver con mite sorpresa. Quando mai ho fatto delle difficoltà contro un uomo perché aveva un porro sulla faccia? Anzi, ho una certa simpatia per i porri, perché mio fratello, quello che è morto, ne aveva uno sulla fronte. Ma non riesco proprio a ricordarmi che tu mi abbia proposto di assumere un carrettiere con un porro sulla faccia, Mr. Tulliver. C'era John Gibbs, che di porri sulla faccia non ne aveva come non ne hai tu. E io ho fatto di tutto perché tu lo assumessi, e infatti lo avevi preso, e se non fosse morto di infiammazione, che abbiamo pagato il dottor Turnbull perché lo curasse, è probabile che condurrebbe il carro ancora adesso. Avrà forse avuto un porro in qualche parte che non si vede, ma come avrei potuto saperlo io, Mr. Tulliver? No, no, Bessie, non volevo precisamente alludere al porro, dicevo così, per accennare a un mucchio di altre cose, ma... Non importa, parlare è sempre una faccenda imbrogliata. Quello che sto pensando è come trovare la scuola che vada bene per mandarci Tom, perché potrei essere messo un'altra volta nel sacco, eh? Come lo sono stato con l'accademia. Di accademie non ne voglio più sapere. Qualunque sia la scuola dove mando Tom, accademia non ha da essere. Un posto deve essere dove i ragazzi impieghino il loro tempo in qualcos'altro che lustrare le scarpe della famiglia e coltivare le patate. È una cosa straordinariamente imbrogliata sapere che scuola scegliere. Mr. Tulliver tacque un minuto o due e cacciò le due mani nelle tasche dei calzoni come se sperasse trovarvi consiglio. Evidentemente non fu deluso perché disse subito: «So io quel che farò, ne parlerò con Riley. Viene domani per decidere la questione dell'argine». Bene, Mr. Tulliver, ho messo fuori i lenzuoli per il letto più buono e Kezia li ha stesi davanti al fuoco. Non sono i lenzuoli migliori, ma per dormirci sono buoni abbastanza per chiunque, sia chi sia. Perché quelli di tela fina di Olanda mi pentirei di averli comprati, non fosse che serviranno ad avvolgerci da morti. Che se tu dovessi morire domani, Mr. Tulliver, sono stirati magnificamente, tutti pronti, odorano di lavanda, eh? E sarebbe un piacere di mettercisi dentro. E stanno nell'angolo a mancina del grosso cofano di quercia per la biancheria, sul fondo. Ma non mi fiderei di nessuno fuorché di me per tirarli fuori. Pronunciata quest'ultima frase, Mrs. Tulliver estrasse dalla tasca un lucente mazzo di chiavi e ne scelse una, sfregandola tra il pollice e l'indice con placido sorriso, mentre guardava brillare il fuoco. Se Mr. Tulliver fosse stato un uomo suscettibile nei suoi rapporti coniugali, avrebbe potuto supporre che ella estraesse le chiavi per aiutare l'immaginazione a precorrere il momento in cui egli sarebbe stato in condizione da giustificare che si mettessero fuori i migliori lenzuoli d'Olanda. Fortunatamente non era così. Il suscettibile era soltanto in tema dei suoi diritti sull'acqua motrice e per di più aveva l'abitudine maritale di non porgere un orecchio troppo attento alla moglie, sicché dopo nominato il signor Riley, si era apparentemente assorto in un esame tattile delle proprie calze di lana. Credo che l'ho indovinata, Bessie, fu la sua prima osservazione dopo un breve silenzio. Pochi uomini potrebbero, come Riley, indicarmi una scuola. È stato scolaro anche lui e se ne va in giro un po' dappertutto per i suoi arbitrati ed estimi e simili. E avremo tutto il tempo di parlarne prima di domani sera, una volta sbrigati i nostri affari. Voglio che Tom Sia un uomo del tipo di Riley, capisci? Che sappia parlare pulito, come se tutto gli stesse scritto davanti e conosca una bella quantità di parole, di quelle che non vogliono dir molto, ma intanto non ci si lascia mai gabbare dagli altri nei processi, e poi che abbia una buona e solida pratica d'affari. Bene, disse Mrs. Tulliver, se fosse solo per parlar bene, intendersi di tutto e andarsene in giro con le spalle curve e portare i capelli all'insù, non mi importerebbe niente che il ragazzo fosse allevato a questo, ma quei bei parlatori delle grandi città usano quasi tutti dei falsi davanti di camicia. Portano una gala finché ridotta ad un cencio e allora la coprono con un baverino. So che Riley fa così. E poi, se Tom deve andare a vivere a Mudport come Riley, starà in una casa con una cucina che appena ci si rigira non avrà mai un uovo fresco per colazione e dormirà a un terzo piano o a un quarto, per quel che io so. E potrà bruciare vivo prima di riuscire a scendere. No, no, disse Mr. Tulliver. Non sono d'idea che vada a Mudport. Ho intenzione che stabilisca il suo ufficio a St. Oaks, qui vicino a noi, e abiti in casa. Ma, continuò Mr. Tulliver dopo una pausa, quel che io temo un po' si è che Tom non abbia propriamente il cervello che ci vuole per riuscire un tipo in gamba. Dubito che sia un tantino tardo. Tiene dalla tua famiglia, Bessie. Eh sì, proprio così, disse Mrs. Tulliver, accettando quest'ultimo giudizio interamente a titolo di lode. È straordinario la quantità di sale che vuole nella zuppa, proprio i gusti di mio fratello e prima ancora di mio padre. Mi sembra un po' peccato, però, disse Mr. Tulliver, che sia il ragazzo ad aver preso dalla parte di sua madre invece che la piccina. È questo il peggior guaio dell'incrocio di razze, non si può mai calcolar giusto cosa verrà fuori. La bambinetta tiene da me, intanto, è il doppio più sveglia che Tom, troppo sveglia per una donna. Ho paura, continuò Mr. Tulliver, scuotendo dubbiosamente il capo prima da una parte e poi dall'altra. Non è un gran male fin tanto che è piccolina, ma una donna troppo sveglia non val più che una pecora dalla coda lunga, non crescerà di prezzo per questo. Sì, è un guaio anche mentre è piccola, Mr. Tulliver, perché la tira ad essere discola. Farle tenere pulito un grembiule per 2 ore passa la mia forza. E adesso mi fai venire in mente, continuò la moglie, alzandosi e andando alla finestra, che non so dove sia, ed è già quasi l'ora del tè. Ah! Lo immaginavo, sta vagabondando presso l'acqua come una selvaggia. Un giorno o l'altro ci cascherà dentro. Mrs. Tulliver picchiò severamente contro i vetri, fece dei segni e scosse il capo, manovra che ripeté più di una volta, avanti di tornarsene alla sua sedia. Tu parli di intelligenza, Mr. Tulliver, osservò quando si fu seduta, ma son sicura che in parecchie cose la bambina è mezza idiota. Tant'è vero che, se la mando di sopra a prendermi qualcosa, si dimentica perché è andata. E magari è capace di sedersi sul pavimento al sole e di starsene lì a intrecciarsi i capelli, canticchiando tutta sola, come una pazza del manicomio, e intanto io sono da basso che l'aspetto. Questo, grazie a Dio, non si è mai visto nella mia famiglia, e nemmeno quella pelle bruna che la fa parere una mulatta. Non vorrei offendere la provvidenza, ma mi par doloroso d'aver avuto solo una figlia per giunta così strana. Bah, che sciocchezze! Disse Mr. Tulliver. È una bambina ben piantata, con un par d'occhi neri che a chiunque fa piacere di vederla. Non so in che cosa stia indietro ai bambini degli altri, sa leggere quasi bene come il pastore. Ma i suoi capelli, per quanto io faccia, non tengono i ricci e lei i diavolini non li vuol soffrire, così ho un lavoro da non finir più per tenerla ferma e arricciarla col ferro. Tagliali, tagliali corti, disse il padre sconsigliatamente. Ma come puoi parlare così, Mr. Tulliver? È già troppo grande, ha passato i 9 ed è anche alta per portare i capelli corti. Guarda un po' la sua cugina Lucy con quella corona di riccioli tutti intorno alla testa e mai un capello fuori di posto. Mi pare ingiusto che mia sorella Diana abbia una bambina così graziosa. Sono sicura che Lucy tiene da me più che la mia bambina. Maggie! Maggie! Se seguitò la madre con un tono mezzo cruccio e mezzo moina, quando quel piccolo errore di natura entrò nella stanza. A che serve dirti di star lontana dall'acqua? Un giorno o l'altro ci cadrai dentro e annegherai. E allora sì che ti dispiacerà di non aver fatto come ti diceva tua madre. I capelli di Maggie, quando ella buttò via il berretto, confermarono purtroppo l'accusa materna. Mrs. Tulliver, nel desiderio che sua figlia avesse una massa di capelli inanellati, come i bambini degli altri, glieli aveva tagliati troppo corti sul davanti perché potessero passare dietro le orecchie. E siccome ridiventavano regolarmente lisci un'ora dopo tolti i diavolini, Maggie continuava a scuotere il capo per liberare i suoi occhi neri lucenti dalle dense ciocche scure, gesto che le dava tutta l'aria di un puledro di Shetland. Dio mio, Maggie, che ti salta in mente di buttar lì a terra il tuo berretto? Portalo sopra, sii una brava bambina, e fatti dare una spazzolata a capelli, e metti l'altro grembiule, e cambiati le scarpe, su, che vergogna! E poi scendi a continuare il tuo lavoro di stoffe ricucite, come una piccola signora. Oh, mamma, disse Maggie con tono di violenta contrarietà, io non voglio farlo il mio lavoro di stoffe ricucite. Come? Il tuo bel lavoro per mettere insieme un trapuntino da regalare alla zia Glegg? È scemo, disse Maggie, dando una scossa alla sua criniera, far le cose a pezzi per poi di nuovo ricucirle. Per zia Glegg non voglio fare nulla, non le voglio bene. E Maggie va via, strascinando il berretto per il naso, mentre Mr. Tulliver ride in maniera ben udibile. Mi meraviglio che tu ci rida, Mr. Tulliver, disse la madre con una punta di irritazione nella voce. Tu la incoraggi nella malizia e le sue zie penseranno che sono io a guastarla. Mrs. Tulliver era quel che si dice una persona di buon carattere. Da bimba non aveva mai pianto per ragioni più lievi che la fame, una puntura di spilli, e dalla culla in su era stata sana, belloccia, grassa e un po' corta. In una parola, il fior della sua famiglia per bellezza e amabilità. Ma il latte e il dolce non sono le cose più facili da conservare, e quando si inacidiscono anche solo un pochino, possono diventare seriamente dannosi per gli stomachi giovani. Mi sono spesso domandata se le antiche madonne di Raffaello, con i loro volti biondi e un certo che di imbambolato nell'espressione, abbiano serbata intatta la loro placidità quando i loro nerboruti ed energici pargoli diventavano un po' troppo maturi per fare a meno dei vestiti. Io credo che debbano essersi lasciate andare a qualche leggera rimostranza, facendosi a poco più stizzose di mano in mano che quelle rimostranze diventavano più inefficaci. 3. Il signor Riley dà il suo parere in merito ad una scuola per Tom. Il signore dall'ampia cravatta bianca e dalla camicia con la gala, che si sorbisce così piacevolmente la sua acqua e grappa col buon amico Tulliver, è Mr. Riley, uomo dalla figura cerea e dalle mani grassocce, di educazione un po' troppo elevata per un perito estimatore, ma ad abbastanza gran cuore per manifestare una forte dose di bonhomie verso a semplici conoscenze di campagna dalle abitudini ospitali. Mr. Riley parlava benevolmente di siffatte conoscenze come di gente della vecchia scuola. La conversazione è giunta ad una pausa. Mr. Tulliver, non senza un suo particolare motivo, si è trattenuto dal raccontare per la settima volta la glaciale risposta con cui Riley era stato troppo forte per il povero Dix. Come Joachim si fosse veduto tagliar la cresta per una volta in vita sua, ormai che l'affare della diga era stato messo a posto per arbitrato, e come non ci sarebbe mai stata discussione sul livello delle acque se tutti fossero come si deve, e il vecchio Harry, il diavolo, non avesse creato gli avvocati. Tutto sommato, Mr. Tulliver era un uomo di sane opinioni, tradizionali, ma su una o due questioni si era affidato al libero esame del suo intelletto ed era giunto ad alcune conclusioni discutibili, tra l'altro che i topi, i gorgoglioni e gli avvocati fossero stati creati dal diavolo. Purtroppo non aveva nessuno ad avvertirlo che questo era flagrante manicheismo, altrimenti avrebbe riconosciuto il proprio errore, ma quel giorno era chiaro che il principio del bene trionfa. L'affare della forza idraulica era stato alquanto ingarbugliato, quantunque a guardarlo sotto certo aspetto paresse chiaro come l'acqua. Ma grosso imbroglio che fosse, a Riley non era costato tutta la punta del suo acume. Mr. Tulliver si sorbiva un'acqua e grappa un po' più potente del solito, e per un uomo che poteva essere supposto possessore di qualche centinaio di sterline giacenti infruttuose presso il banchiere, si abbandonava un po' imprudentemente a manifestare la sua profonda stima per il talento in affari del suo amico. Ma la diga era un soggetto di conversazione che poteva pazientare. Sarebbe sempre stato possibile di riprenderlo allo stesso punto ed esattamente nelle medesime condizioni. C'era invece, come sapete, un altro argomento sul quale Mr. Tulliver aveva premura di conoscere il parere di Mr. Riley. Era questa la ragion veduta per cui, dopo il suo ultimo sorso, era rimasto per alquanto tempo silenzioso, grattandosi i ginocchi in maniera meditativa. Non era uomo da far brusche transizioni. Questo mondaccio è complicato, come egli diceva spesso. E se conducete il vostro carro con furia, potete imbattervi in una svolta pericolosa. Mr. Riley, da parte sua, non era impaziente. E perché lo sarebbe stato? Perfino un indemoniato, potete ben crederlo, sarebbe stato paziente, in pantofole davanti a un bel fuoco, fiutando copiose prese e sorbendosi dell'acqua e grappa gratuita. Una cosa mi sono messo in capo, disse finalmente Mr. Tulliver in un tono un po' più basso del consueto, mentre si volgeva a guardar fisso il suo compagno. Ah, disse Mr. Riley con aria di dolce interessamento. Aveva palpebre pesanti e ceree e sopraccigli molto marcati. In qualunque circostanza il suo aspetto era sempre il medesimo, esattamente. Questa immobilità del volto e l'abitudine di pizzicare una presina prima di rispondere facevano di lui un triplo oracolo agli occhi del signor Tulliver. È una cosa molto particolare, proseguì lui. Si tratta di mio figlio Tom. Al suono di questo nome, Maggie, che se ne stava muta su di uno sgabelletto basso accanto al fuoco, con un grosso libro spalancato in grembo, scosse all'indietro i folti capelli e guardò in su vivamente. C'erano pochi suoni che destassero Maggie quando se ne stava sognando sul suo libro, ma il nome di Tom fece l'effetto di un fischio dei più acuti. In un attimo ella fu in guardia con gli occhi ardenti, come uno Skye Terrier che sospetti un brutto tiro e in ogni caso pronta ad avventarsi contro chiunque ne minacciasse uno a Tom. Vedete? Per la mezza estate desidererei metterlo ad una nuova scuola, disse Mr. Tulliver. Uscirà dall'accademia il giorno dell'assunzione, lo lascerò in vacanza per un trimestre, ma poi voglio mandarlo ad una scuola come si deve, dove ne facciano una persona istruita. Bene, disse Mr. Riley, non potete dargli nulla di più utile che una buona istruzione, non già, soggiunse con cortese allusione. Non già che uno non possa riuscire eccellente mugnaio e castaldo, nonché furbo e accorto uomo d'affari anche senza l'aiuto del maestro di scuola. Ve lo credo, disse Mr. Tulliver strizzando l'occhio e inclinando il capo da una parte. Ma le cose stanno così. Io non intendo fare di Tom un mugnaio e un castaldo. Non vedo che gusto, perché se ne faccio un mugnaio e un castaldo, egli sarebbe impaziente di prendersi il mulino e la terra, e mi farebbe capire che per me è tempo di ritirarmi e di pensare alla mia ultima ora. No, no, esempi di questo genere ne ho veduti abbastanza nei figli. Non voglio spogliarmi prima di andare a letto. A Tom darò un'educazione e lo metterò negli affari perché possa farsi il suo nido senza avere bisogno di cacciare me fuori dal mio. Questo sarà grazia che ce l'abbia quando io sarò morto e sotterrato. A me non mi si butterà fuori a far brodo prima che io abbia perduto i miei denti. Era questo evidentemente un punto molto sensibile per Mr. Tulliver. E l'impeto che aveva conferito, insolita concitazione ed enfasi a suo dire, si prolungò ancora per qualche minuto in un oscillante moto di sfida del capo e in certi no, no, no, intermittenti, simili a un brontolio che a poco si acquieti. Questi sintomi di collera furono pungentemente notati da Maggie e la ferirono al vivo. Tom, a quanto pareva, era ritenuto capace di mettere suo padre fuori dalla porta e in certo qual modo di funestare con la sua cattiveria l'avvenire. Questo passava i limiti e Maggie balzò dal suo sgabello, dimenticandosi completamente del suo pesante libro, che cadde fragorosamente dietro il parafuoco. Andando a mettersi fra le ginocchia del padre, disse con voce metà di pianto e metà di sdegno: Babbo, Tom non sarà mai cattivo con te, lo so io. Mrs. Tulliver era fuori dalla stanza, intenta a sorvegliare un piatto sceltissimo per la cena. Il cuore di Mr. Tulliver fu toccato, così Maggie non fu rimproverata per via del libro. Mr. Riley lo raccattò tranquillamente e si mise a guardarlo mentre il padre rideva con una tal quale tenerezza che gli trapelava dai rudi lineamenti del viso. Diede qualche buffetto sulle spalle della sua piccina, poi prendendola per le mani se la trattenne fra i ginocchi. Dunque, non è permesso dir male di Tom, vero? Disse Mr. Tulliver guardando Maggie con occhi che gli brillavano. Poi, con voce più sommessa, volgendosi verso Riley, quasi che Maggie non potesse udire. Capisce tutto quello che si dice, che l'uguale non si è mai vista. E la sentiste leggere, correntemente, come se sapesse già tutto prima. È sempre sui libri, ma questo è un male, soggiunse con tristezza, reprimendo quel suo biasimevole entusiasmo. È inutile che una donna sia tanto intelligente, non può portarle che dei fastidi. Ho paura. Ma Dio la benedica. E qui l'entusiasmo stava evidentemente riprendendo il sopravvento. Lei può leggere i libri e capirli meglio che quasi tutte le persone grandi. Le gote di Maggie si venivano infuocando di un ardore di trionfo. Pensava che d'ora in poi Mr. Riley l'avrebbe rispettata, mentre era troppo chiaro che fino adesso non l'aveva tenuta in conto alcuno. Mr. Riley stava sfogliando il libro ed ella non poteva venire a capo di quel viso dai sopraccigli inarcati, ma ecco che egli la guardò e le disse: Vieni qua, parlami un po' di questo libro, ci sono tante figure, vorrei sapere che cosa significano. Maggie, più vivamente imporporata, si avvicinò senza esitazione al fianco di Mr. Riley e guardò sul libro, afferrandolo impetuosamente per un angolo e buttando all'indietro i capelli mentre diceva: Oh! Vi dirò subito quel che significano. Sono figure terribili, ne è vero? Ma io non mi posso tenere dal guardarle. Questa vecchia nell'acqua è una strega. Ce l'hanno buttata per scoprire se lo è o non lo è. E se galleggia è una strega. Ma se affoga o muore, capite, allora è innocente e non è una strega, ma soltanto una povera vecchia scema. Ma allora capite che vantaggio potrà averne quando sarà annegata? Solo quello, credo, di andare in paradiso e che Dio gliene terrà conto. E questo spaventoso maniscalco con le braccia sui fianchi che se la ride, oh, non è brutto? Ve lo dirò io chi è il diavolo in persona. E qui la voce di Maggie si fece più forte ed eloquente, non un vero maniscalco, perché il diavolo prende la forma degli uomini cattivi e se ne va in giro e fa commettere alla gente delle cose orribili. E prende la forma degli uomini cattivi più spesso che qualunque altra, perché, voi capite, se la gente vedesse che è il diavolo e lui ruggisse contro di loro, fuggirebbero e non potrebbe più costringerli a fare ciò che vuole. Mr. Tulliver aveva ascoltato questa spiegazione di Maggie con una meraviglia che lo impietriva. Come? Ma che razza di libro è mai capitato tra le mani della marmocchia? Scattò alla fine. La storia del diavolo di Daniel Defoe. Che non è certo il libro più adatto per una piccola bimba, disse Mr. Riley. E com'è venuto a finire tra i vostri libri, Tulliver? Maggie apparve offesa e scoraggiata, mentre suo padre diceva: Ecco, è uno dei libri che ho comperati alla vendita di Partridge, erano tutti relegati allo stesso modo. Una buona legatura, vedete? E ho pensato che dovevano essere tutti buoni libri. C'è anche Vita e Morte Santa di Jeremy Taylor. Me ne leggo spesso qualcosa la domenica. Mr. Tulliver sentiva una certa familiarità con quel grande scrittore, perché si chiamava anche lui Geremia. Ce n'è una quantità di questi libri, sermoni la maggior parte, credo, ma avevano tutti la stessa copertina e ho pensato che fossero tutti dello stesso stampo, se così posso dire. Pare però che non si debba proprio giudicare dalle apparenze. Complicato questo mondaccio. Bene. Disse Mr. Riley in tono di benevola ammonizione mentre carezzava il capo di Maggie. Ti consiglio di mettere da parte la storia del diavolo e di leggere qualcosa di più carino. Non ne hai dei libri più carini? Oh sì, disse Maggie, rianimandosi un poco nel desiderio di mettere in mostra la varietà delle sue letture. So bene che leggere questo libro non è una bella cosa, ma mi piacciono le figure e ci faccio sopra delle storie di testa mia, vedete? Ma ho le favole di Esopo e poi ho un libro sui canguri e altre cose e poi Il viaggio del pellegrino. Ah, magnifico libro, disse Mr. Riley. Non ne puoi leggere uno migliore. Bene, ma anche in quello si parla molto del diavolo, disse Maggie trionfante. E anzi, voglio mostrarvi la figura proprio come lui, quando combatte contro Cristiano. E subito Maggie corse a un angolo della stanza, saltò su di una sedia e tirò giù dal piccolo scaffale un curioso vecchio esemplare di Bunyan, che si aprì di colpo, senza che ella dovesse minimamente affaticarsi a cercare, alla figura desiderata. Eccolo qui, disse tornando di corsa verso Mr. Riley. E Tom me l'ha tutto dipinto coi suoi colori quando è stato a casa per le ultime vacanze. Il corpo tutto nero, sapete, e gli occhi rossi come il fuoco, perché lui dentro è tutto fuoco che gli schizza fuori dagli occhi. Su via, disse perentoriamente Mr. Tulliver, cominciando a sentirsi alquanto a disagio per tutti questi disinvolti commenti sull'aspetto personale di un essere che aveva niente meno il potere di creare gli avvocati. Chiudi il libro e che di queste cose non si parli più. Proprio come pensavo io, dai libri questa bambina impara più del male che del bene. Su, va a vedere cosa fa tua madre. Maggie chiuse subito il libro con un senso di vergogna. Ma siccome non era disposta ad andare a vedere cosa facesse la mamma, scelse una via di mezzo, ritirandosi in un angolo oscuro dietro la seggiola del padre e mettendosi a ninnare la sua bambola verso la quale sentiva, durante l'assenza di Tom, dei momentanei slanci di tenerezza. Vero è che ne trascurava la toeletta, ma le prodigava tanti e tanti baci che quelle guance di cera avevano assunto un aspetto pallido ed emaciato. Avevate mai sentito niente di simile? Domandò Mr. Tulliver mentre Maggie si ritirava. È un vero peccato che non sia un maschio. Avrebbe potuto tener testa agli uomini di legge, avrebbe. E la cosa più straordinaria, e qui abbassò la voce, è che io ho sposato la madre perché non era eccessivamente intelligente, quantunque fosse una donna di bell'aspetto, anche venisse da una famiglia davvero eccezionale per il governo della casa. Ma l'ho preferita alle sorelle precisamente perché pareva un po' meno sveglia, e io non volevo che si venisse a insegnarmi a vivere proprio qui, in casa mia. Ma vedete, quando un uomo ha un po' di sale in zucca non si può mai sapere dov'è che andrà a finire questo sale. E magari una donna carina e sempliciotta può mettervi al mondo dei ragazzi scemi e delle bambine sveglie, quasi che il mondo si fosse girato a gambe all'aria. Sono cose straordinariamente complicate. La gravità di Mr. Riley scomparve ed egli si agitò un poco sotto l'azione di una presa di tabacco prima di dire: Ma il vostro ragazzo non è stupido, no? L'ho veduto l'ultima volta che sono stato qui. Stava fabbricando degli arnesi da pesca e aveva l'aria di sapere benissimo il fatto suo. Certo che sia stupido, non si può dire. Ha una certa conoscenza di quel che si fa nel mondo e una specie di buon senso che gli permette di prendere le cose per il loro giusto verso, ma è impacciato nel parlare e legge con fatica e non può soffrire i libri e sbaglia sempre l'ortografia, quel che mi dicono. E con gli estranei è timido quanto si può esserlo, e poi non lo sentirete mai dire delle cose intelligenti come fa invece la bambina. Ora quel che io desidero è di mandarlo a una scuola dove me lo rendano un po' pronto sia nel parlare che nello scrivere e me ne facciano un uomo in gamba. Voglio che mio figlio si metta a livello di quei tipi che mi bagnano il naso solo perché hanno studiato di più. Certo che se il mondo fosse rimasto come Dio l'ha fatto, io avrei ben saputo fare la mia strada e cavarmela quanto i più bravi, ma le cose sono state talmente imbrogliate, raggirate, con parole irragionevoli, senza la minima parentela con ciò che vogliono dire, che troppe volte io mi trovo netto netto nell'imbarazzo. Tutto si è talmente confuso che più voi marciate dritto e più siete fuori di strada. Mr. Tulliver beve un sorso. Se lo ingollò piano piano e scosse il capo malinconicamente, consapevole di dimostrare col proprio esempio la verità che un'intelligenza perfettamente sana è sempre un po' spaesata in questo pazzo mondo. Avete tutte le ragioni, Tulliver, osservò Mr. Riley. Meglio spendere un 100-200 sterline di più nell'educazione di vostro figlio che lasciargliele poi nel testamento. So che io avrei cercato di fare altrettanto per mio figlio se ne avessi avuto uno, sebbene, Dio lo sa, io non posso disporre di denaro liquido come voi, Tulliver, e abbia per sopramercato una nidiata di femmine. Suppongo appunto che sappiate di qualche scuola che possa fare al caso di Tom, disse Mr. Tulliver, senza che la minima compassione per la scarsità di denaro liquido di Mr. Riley lo distraesse dal proprio obiettivo. Mr. Riley fiutò una presa e tenne sospeso Mr. Tulliver in un silenzio che parve gravido di ponderazioni. Poi disse: So di un'occasione veramente buona per chi abbia il denaro necessario e voi l'avete, Mr. Tulliver. Effettivamente, ad un amico io non consiglierei mai di mandare il suo ragazzo ad una scuola regolare quando avesse la possibilità di far qualcosa di meglio. Ma se uno desidera che suo figlio riceva un'istruzione o un'educazione superiori in un luogo dove possa essere l'amico del suo maestro e di un maestro veramente di primo ordine, ho l'uomo che ci vuole. Certo, che di quest'occasione non parlerei a chi che sia, perché non credo che tutti sarebbero ammessi a profittarne, se anche tentassero. Ma con voi posso accennarne, Tulliver, qui a quattro occhi. Lo sguardo fisso e interrogativo con cui Mr. Tulliver aveva spiato il volto oracolare del suo amico si fece assolutamente ansioso. Ebbene, son qui che vi ascolto, disse, accomodandosi sulla propria sedia con la compiacenza di una persona ritenuta degna di importanti comunicazioni. Uno che viene da Oxford, disse sentenziosamente Mr. Riley, stringendo le labbra e fissando Mr. Tulliver per cogliere l'effetto di questa interessante informazione. Come? Un pastore? Disse Mr. Tulliver alquanto dubitoso. Già, è un Master of Arts. Un maestro d'arti, un grado di accademico. Mi risulta che il vescovo lo tiene in grande stima ed è stato lui stesso a procurargli il vicariato che occupa attualmente. Ah, disse Mr. Tulliver, a cui le notizie concernenti questi fenomeni dissueti riuscivano tutte ugualmente meravigliose. Ma allora che cosa se ne fa di Tom? Ma come? È un entusiasta dell'insegnamento e desidererebbe di tenersi in esercizio coi propri studi, mentre un pastore tra i suoi doveri parrocchiali non ha molte occasioni di farlo. Perciò vorrebbe prendere due o tre ragazzi come allievi per impiegare utilmente il proprio tempo. Quelli sarebbero letteralmente della famiglia, sempre sotto gli occhi di Stelling, che miglior cosa per loro non potrebbe esserci. Ma credete che gliene darebbero due volte del pudding a quel povero ragazzo? Disse Mrs. Tulliver, che era tornata al suo posto. Perché per il pudding non c'è il secondo come lui. E a un figliolo in crescenza come quello sarebbe terribile pensare che limitassero le porzioni. E quanto chiederebbe? Disse Mr. Tulliver, a cui l'istinto diceva che le prestazioni di un così ammirevole Master of the Arts avrebbero comportato un alto compenso. Ecco, io so di un ecclesiastico che pretende 150 sterline per gli allievi più giovani e non può neppure paragonarsi a Stelling, che è l'uomo di cui vi parlo. So da fonte sicura che uno dei più ragguardevoli personaggi di Oxford ha detto Stelling potrebbe raggiungere i massimi onori se volesse. Ma lui non ci tiene agli onori universitari, è un tipo pacifico, non è un agitato. Ah, sempre meglio, disse Mr. Tulliver. Ma 150 è un prezzo esagerato, non ho mai pensato di spendere tanto. Una buona educazione, lasciate che ve lo dica, Tulliver, una buona educazione è regalata a quel prezzo. Ma Stelling è ragionevole nelle pretese, non è onesoso, non dubito che prenderà vostro figlio per 100 sterline e non trovereste tanti altri ecclesiastici disposti a farlo. Gli scriverò in proposito, se credete. Mr. Tulliver si grattò i ginocchi e fissò il tappeto in attitudine meditabonda. Ma forse che a scapolo? Osservò nel frattempo Mrs. Tulliver. Io non ho molta stima delle governanti. C'era mio fratello, quello che è morto, che una volta aveva una governante e quella gli prese la metà delle piume del letto più buono e ne fece un involto e se lo portò via. E non si è mai saputo la quantità di biancheria che ha rubata. Stott si chiamava. Mi si spezzerebbe il cuore mandare Tom dove c'è una governante e spero che voi non ci penserete neppure, Tulliver. Quanto a questo, potete mettere il cuore in pace, disse Mr. Riley, perché Stelling è sposato con la più graziosa donnina che un uomo possa desiderare per moglie. Non c'è al mondo una piccola anima più gentile. Conosco bene la sua famiglia. Ha una carnagione che ricorda molto la vostra, i capelli chiari e inanellati. E viene da una buona famiglia di Mudport. E non sono molti i partiti davanti a cui non si arricci il naso da quelle parti. Ma Stelling non è un uomo qualunque. Anzi, è un tipo piuttosto difficile nella scelta della gente con cui entra in relazione. Però credo che per vostro figlio non farà difficoltà. Credo che non ne farà se lo raccomando io. Non so che cosa potrebbe avere contro il ragazzo, disse Mrs. Tulliver con una lieve sfumatura di materna indignazione. Un bel figliolo, dalla pelle fine, che a tutti farebbe piacere di vederlo. Ma c'è una cosa a cui sto pensando, disse Mr. Tulliver, volgendo il capo da una parte e guardando Riley dopo una lunga contemplazione del tappeto. Un pastore non sarà poi troppo istruito per tirar su un ragazzo per gli affari? Gli ecclesiastici, a quanto ne so, hanno un genere di istruzione sempre un po' nelle nuvole. E non è di questo che ho bisogno per Tom. Voglio che sappia l'aritmetica e scriva chiaro come l'ho stampato e veda svelto nelle cose e capisca quel che la gente vuol dire e sia capace di imbrogliare gli affari in modo che poi non nascano contestazioni. Perché la cosa più bella è proprio questa. Concluse Mr. Tulliver scuotendo il capo, poter far sapere alla gente quel che pensate di loro senza dover pagare la parcella agli avvocati. Oh, caro Tulliver, disse Mr. Riley, voi siete in un grave errore per ciò che concerne il clero. Tutti i migliori maestri appartengono al clero. In generale, i maestri non ecclesiastici sono tutti di una classe parecchio scadente. Eh già. Come quel Jacobs dell'Accademia, interruppe Tulliver. Sicuro, gente che per lo più ha fatto fiasco in altri mestieri. Un ecclesiastico invece è un gentiluomo per professione e per educazione. Inoltre ha la cultura che serve per dare delle basi sicure a un ragazzo e prepararlo ad entrare con buone referenze in qualunque carriera. Ci saranno magari tra gli ecclesiastici dei puri topi di biblioteca, ma potete star certo che Stelling non è uno di quelli. È un uomo sveglio della quarta, ve lo dico io. Fategli solo un cenno e lui ha già capito. Voi parlate di aritmetica, ebbene, avete soltanto da dire a Stelling: voglio che mio figlio sia un perfetto aritmetico. E lasciate pur fare a lui. Mr. Riley tacque un momento, mentre Mr. Tulliver, alquanto rassicurato sulla pedagogia degli ecclesiastici, ripeteva dentro di sé a un immaginario Mr. Stelling la raccomandazione: voglio che mio figlio sappia l'aritmetica.